Guarda com'è bella Bologna questa sera. Sembran tante luci e invece neve. Scende bianca e trasparente ora che la città è deserta e noi siamo chiusi in casa a sognare. Perché le ferite sulla pelle non rimarginano neanche se ti guardo tra le stelle adesso che senti i tuoi colori e respiro sotto i portici contando tutti i miei errori. Guarda questa vita attaccata a un filo, attenta che si spezza con un dito. Ali di farfalla, ora che il silenzio è intorno a noi, camminiamo per le vie del centro. Perché le ferite sulla pelle non rimarginano neanche se ti guardo tra le stelle adesso che senti i tuoi colori e respiro sotto i portici contando tutti i